best rock and roll station in the world. It's Rock FM. Pronti a dare le soluzioni al test attitudinale? Non prima di, in barba al britannico Times, stilare noi la nostra classifica di cosa le rockstar italiane non possono non avere durante i propri concerti. Roberto Fricantoni non suona se... se non ha il suo chinotto San Pellegrino. Un chinotto ogni due ore fa passare il malumore. Era un po' che non lo ricordavamo. Ha fatto bene a ricordarmelo. Il chinotto, la risposta italiana alla Coca-Cola. Ricordiamo agli amici di Cascina Mollue che ospiteranno domenica gli Schiantos. Mi raccomando, le 12 casse di chinotto richieste, fresche. Come da rider. Esatto. Parliamo invece del britannico Times, che stilava questa classifica riguardante le rockstar straniere. Di cosa non possono proprio fare a meno? La soluzione A ipotizzava praline di cioccolato di colore rosso. Ebbene, chi ha scelto questa ipotesi, ahimè, ha sbagliato. Bah, bah, bah. E allora forse non possono fare a meno di un asciugacapelli a pile? Anche in questo caso, ai. La soluzione è quella non giusta, ma sbagliata. Hai capito? Questi vecchietti del rock and roll non possono fare a meno della maschera d'ossigeno. Lei ha mai provato a fare una tettata dalla maschera d'ossigeno? Francamente no, però sì, ne compriamo una per domenica e ci facciamo due tiri. Ci facciamo insieme la maschera d'ossigeno. Ma quanto costerà una maschera d'ossigeno? Non so, siamo... però sguinzagliamo, vorrei provare. Sguinzagliamo il nostro buon Isacco, lo statista impagabile. Lo stagista impagabile. Forse anche statista. Lo stagista impagabile. E anche impagato. Ricordiamo che non possono proprio farne a meno, soprattutto Ozzy Osbourne, i Korn, Meatloaf, gli Aerosmith, i Metallica. E segnaliamo che David Bowie, oltre alla maschera d'ossigeno, chiede che la temperatura del suo camerino sia mantenuta tra i 14 e i 18 gradi centigradi, che è la temperatura ideale per mantenere il lifting al suo posto, perfetta per conservarsi e non far sciogliere tutta l'impalcatura. Oh yeah. Don't know what I was waiting for, and my time was running wild. A million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. Now I may change me, but I can't trace down. Size, but never leave the stream of warm and permanent scent. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strange. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Changes. Turn and face the strange. Changes. Where the shame you've left is up to her next event. Time may change me, but you can't twist time. Strange fascination, fascinating. Our changes are taking Ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta. But I can't trace down. I said that time may change. Ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta. But I can't trace down. Il Duca Bianco, David Bowie, con Changes. Scopriamo che allora richiede un camerino fresco per mantenersi in forma. Tra l'altro anche qui nella diretta di Rock FM si sta belli freschi, ve lo devo confessare. 8 e 35 minuti primi, pane, burro, rock and roll con l'Ariele. Ormai dovreste essere svegli tutti. Ultimi minuti di diretta, ultima ventina di minuti di diretta, nel corso dei quali succederà ancora di tutto. Devo per forza salutare un amico, Ste si firma, in realtà sono due Ste e Io, o Gio magari, ecco, sarebbe meglio. Mi scrivono ad aria@radiorockfm.com. Loro tentano per la seconda volta di corromperci per quanto riguarda la possibilità di ricevere una patente da vero rocker senza dover svolgere il test attitudinale. Leggo. In aggiunta al tentativo di corruzione di settimana scorsa, a pochi giorni da quello che verrà indubbiamente ricordato come l'evento del 2007, ovvero la consegna delle patenti da vero rocker, vi riscrivo per informarvi che, quale bieco atto di lecchinaggio nei vostri confronti, io e il mio amico Joe ci presenteremo all'evento con due magliette autoprodotte recanti le scritte «Mio Dio è pieno di stelle» e «Tracu Tracu». Due tormentoni della nostra trasmissione. In realtà le magliette le ha prodotte mia sorella, che non lo sa, ma secondo me meriterebbe una patente davvero rocker involontaria. Sì, un po' sì. Certi di farvi cosa gradita, con questa forma di leccaculismo speriamo in questo modo di superare, anche se ignobilmente, l'ostacolo del test. Pur seguendovi giornalmente, siamo sicuri che, essendo dei cialtroni, falliremmo tutte le risposte. Chiudo con una citazione da Non ci resta che piangere, con la faccia sotto i vostri piedi, e vi potete anche muovere. Umilmente vostri, Ste e Joe. Guarda, siamo tutti nella stessa squadra, eh? È proprio vero. Gli sms 335-100-7777. Lo sapevate che il Lotto è nato a Genova nel XVI secolo e non a Napoli o a Milano in piazzale Lotto? Beh, sulla seconda un po' ci ero arrivato anch'io. Abbiamo anche, sempre a proposito di numeri, Elena 68, Genova 49-66, ambo da 250 euro, ho vinto. Ma non te l'avevamo consigliato noi, vero? Un saluto anche a Gabri. Venerdì scorso ti ho lasciato allo Charlotte il demo della mia band, ci vediamo domani a Livorno, così spacchiamo tutto. Cosa c'è di più rock che demolire tutto? Certo, Gabri, a domani al Charlotte con Dome la Muerte in console e il DJ Ariele Colle Salvetti Livorno. Grazie che mi hai ricordato la serata. Un saluto anche a Graziano, ma veloci, veloci, perché io vedo sempre quelle due chitarre inquietanti nello studio di Rock FM. Ma c'è lui, Mr. Lou Reed. Ci facciamo un viaggio nello spazio con il suo satellite, il satellite dell'amore. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. You've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. To watch things on TV. Faccio il controcoro. Hai visto che so preciso? Meravigliosa Satellite of Love, Lou Reed, che musica maestro, su Rock FM 24 ore su 24, la grande musica, quella con la G in grassetto e la M bolsata, meglio di così non troverete in circolazione. Spadino, quando siamo qui, tu dovresti farmi l'arrangiamento di Satellite of Love ogni tanto, in cuffia, in interfono dovresti farmi... Plong, plong, plong, plong, plong, plong. Di svolta la giornata per me. Mauro da Milano chiede un in bocca al lupo per il fratello che domani si opera. Mauro, un abbraccione a te e pure a tuo fratello. Siete in squadra con noi. Anche a Frank, ho spedito in America del materiale importante per il mio futuro da fumettista. Posso avere una strombazzata? Stai in una botte di ferro. Adesso poi uno va a pensare che è vero quel detto che ognuno ha i radioascoltatori che si merita, eh? Recito da 335 100 7777, messaggio giacente nel mio computer. Mike Antoni, perché non fate Miss e Mr. Rock FM a pane, burro e rock and roll? Io mi candido, ci vuole anche Arietta Goggi. Un saluto a Steve, a Valerio, che chiede solidarietà ai monaci buddisti ribelli che stanno lottando pacificamente per la libertà. Fa, grida, studi aperti al pubblico di pane, burro e rock and roll, come sui palchi punk. Oh, mamma mia. Venite a trovarci, noi siamo qui in via Locatelli 1, 20-124 Milano, eh? Se portate un paio di brioche, salamino... una boccia di vino, via, si accoglie sempre tutti a braccia aperte, eh? Orso da Ravenna, Fabio da Ravenna, Viola, anche lei alle prese con un esame, Carroga, Dasce, Mato, sto leggendo velocemente le firme, Metal Meccanico, scritto Metal con riferimento, in tanti contenti del ricordo a Cliff Burton di questa mattina, Nicola da Massa. E chioso con questo. Vuol dire essere testardi o strulli? Se continuo a prendere il latte, nonostante ogni volta che lo bevo, devo correre in bagno a fare guerra con il cesso? Guarda, ti sei commentato da solo, caro amico mio. 8:44 minuti primi. Attenzione perché intravedo la nostra redazione pronta con le chitarre. Ve lo ricordo da inizio diretta, settimana scorsa. Rovinammo una canzone dei Beatles, Hey Jude, trasformandola in Hey Judita. Quest'oggi cosa accadrà a pane, burro, rock and roll? Lo scopriamo dopo Behind Blue Eyes. così ci si rilassa un attimo e poi la mazzata finale, ok? No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind the blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger, none of my pain or woe can show through. Ci siamo dopo il grande successo di settimana scorsa con quella meravigliosa interpretazione, maestro, mi permetta di dirlo, lei, di Hey Jude in versione italiana. Hey Giuditta, che momenti, che ricordi! Lei è troppo buono, DJ Ariel. Ricordo ancora buono, le centinaia buono di messaggi che sono arrivati. Ancora, ancora, vi prego, ancora! Ma che dico centinaia, diciamo migliaia, però cosa? Insomma, i Beatles, certo, questa è la vera versione filologicamente sì, ineccepibile. Esatto. Però sa, perdono qualcosina, ma no, i Beatles. Ma maestro, ma vuole mettere, se i Beatles fossero nati a Casal Pusterlengo. Se i Beatles fossero nati a San Lazzaro di Savena. Siamo pronti, ci siamo ragazzi, una Beh, seconda. No. Mi sembra un filo blasfema la cosa. No, ma un guardi, po' una bestemmia sui Beatles. Piace, semiseria. Ma come i Beatles avrebbero scritto i loro grandi classici nella lingua madre? L'italiano, lei dice. E come se la sarebbero cavata? Quest'oggi maltratteremo Yellow Submarine, se la ricorda? Ma natu- You're leaving the Yellow Submarine.

direi che è andata anche quest'oggi. Ci siamo giocati la faccia anche in questo giovedì. Complimenti a Molle. Si chiude con questo super blues targato George Thorogood, You Don't Love Me. O meglio, pane, burro, rock and roll. Ecco, questa è la fine. Parecchi appuntamenti. Venerdì sera a Colle Salvetti, provincia di Livorno, al Charlotte. Il DJ Ariele con Dome la Muerte, dal vivo Vallanzasca. Domenica sera, Cascina Molloè, presentazione ufficiale della patente davvero rocker qui a Milano con gli Schiantos dal vivo, Roberto Fricantoni. Noi di pane, burro e rock and roll ci saremo. Noi siamo in squadra con voi e voi siete in squadra con noi. Boh, nuovo tormentone. Pane, burro, rock and roll chiude Baracca e Burattini. Grazie per essere stati con noi. Ci si risente domani. Pane, burro e rock and roll, precisi, puntuali come un lampione. La tua colazione roll, come un lampione crepuscolare. Pane, burro e rock and roll, con la nostra carica di simpatia. E devi curiti. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Yo, yo. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Per tutti coloro che non ci credevano che la patente davvero rocker sarebbe mai esistita, segnalo che su RadioRockFM.com c'è già un'anteprima, c'è un facsimile. Intanto do la buona giornata anche a Marco Garavelli, tra pochi minuti pronto a condurvi fino al mezzodì. Esatto. Tutto a posto, Marco. Tutto a posto. Dobbiamo fare un'altra presentazione, sempre a proposito di serate. Riguarda settimana prossima. Sì. Ovvero, ero preso dai messaggi, scusami. Ovvero la festa per i 17 anni di Rock FM. Allora è lunga, vado a prendere un caffè. In che senso? La presentazione. Nel senso che lanciamo in anteprima lo spot, esatto, che ricorderà i 17 anni di Rock FM, o meglio la festa che si terrà poi sabato prossimo. Il personaggio principale di questo spot è lei, Marco Garavelli. Sì, mi arriverà la telefonata o la lettera di richiamo tra pochi secondi da parte di chi? Dei capi. Dei capi, può essere, sicuramente, perché non è un Marco Garavelli che sponsorizza la serata, è una parodia, dai, diciamo, è un Jerry Garavelli. Vabbè, stavolta mi è capitato dopo tutti gli altri personaggi. Ricordiamone solo alcuni, cioè, per ricordare le feste di Rock FM, spesso e volentieri abbiamo inventato dei personaggi. Re Martù. Io ero il mago Arielino. Esatto. Poi in Star Trek. Deriulotto, perdonami. Esatto. Star Trek, sì. Capitan Kirkarelli. Kirkarelli, bravo. Anche questo. Io non ricordo, sarò stato un venusiano, io sicuramente. Immagino. Qualche altro spot che ricordi? Spot. Facciamo finta di non ricordarci, sì, che è meglio. Intanto ascoltatevi quello nuovo, noi ci si risente domani alle 7 qui su Rock FM. Ciao. Buonasera da Jerry Garavelli. Benvenuti ad una nuova puntata di Chi vuole essere rockettaro? Abbiamo con noi il primo concorrente della serata e quindi la prima domanda. Quanti anni compie la storica emittente radiofonica Rock FM? Risposta A, 10 anni. Risposta B, 17 anni. Risposta C, 35 anni. Beh dai, questa è facile, la so. Risposta B, 17 anni. Accendiamola. Esatto. Proseguiamo con il secondo concorrente. Quando e dove si festeggerà il compleanno di Rock FM? Risposta A, il 6 ottobre all'Alcatraz di Milano. Risposta B, il 6 ottobre all'Oratorio dei Salesiani. Risposta C, il 6 ottobre alla Bocciofila di Cornaredo. Beh, sono indeciso, parecchio indeciso, perché so che comunque alla Bocciofila di Cornaredo fanno un sacco di belli eventi, però mi sento di dire 6 ottobre all'Alcatraz di Milano, quindi risposta A, accendiamola. Risposta esatta. Altra domanda, chi condurrà la serata? Risposta A, tutti i DJ di Radio Maria. Risposta B, qualche DJ di Radio Maria. Risposta C, tutti i DJ di Rock FM. E così a freddo non mi viene in mente, non ho un aiutino? Hai a disposizione una telefonata. Chi c'è a casa che ti aiuta? C'è Frick Antoni, posso chiamare lui. Ciao Frick, benvenuto a chi vuole essere rocchettaro. Ciao Jerry Garavelli. Da questo istante hai a disposizione 30 secondi. Allora Frick, devi aiutarmi. Chi condurrà la serata? Tutti i DJ di Radio Maria? Qualche DJ di Radio Maria o tutti i DJ di Rock FM? Ma è chiaro, è l'ultima. Non possono che condurre la serata tutti i DJ di Rock FM. E allora è questa, tutti i DJ di Rock FM. L'accendiamo. Se anche tu vuoi diventare rocchettaro, partecipa alla festa di compleanno di Rock FM. Sabato 6 ottobre all'Alcatraz di Milano, con lo staff della radio al completo. Marco Garavelli. Claudia. Max De Riu. Giulio Caperdoni. L'Ariele. Roberto Fricantoni. Fabio Treves. Edo Rossi. Mox Cristadoro. Il Matthews. Maurizio Faulisi. E forse anche Chuck Bird. E l'esibizione dal vivo della Rock FM All Star Band. E ancora regali. Patente da vero rocker, CD, t-shirt e la nostra musica. Vi aspettiamo a partire dalle 22:30. Rock FM, la vostra radio rock definitiva. L'accendiamo?